Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Mr. Kilowatt. Efficienza energetica significa anche riciclo dei materiali e delle materie prime, la cui estrazione o produzione a partire da zero, diciamo, richiede inevitabilmente energia. Stasera ci occupiamo però di un caso specifico che, rispetto ad altre tipologie, per così dire, di raccolta differenziata, ha una storia piuttosto recente. Parliamo della raccolta a fine vita delle sorgenti di luce, quindi lampade, lampadine, chi più ne ha più ne metta, e degli apparecchi di illuminazione, lampadari per esempio. In Italia a gestire il recupero di questi apparecchi è Ecolamp, che è un consorzio nato per effetto di una legge dello Stato che raccoglie circa il 70% dei produttori di questo tipo di apparati e che, appunto, in seguito, questi produttori alla legge in questione hanno ricevuto l'obbligo di assicurare il ritiro delle lampade esaurite. Diamo allora il benvenuto a Fabrizio D'Amico, direttore generale di Ecolamp. Buonasera D'Amico. Buonasera a voi e agli ascoltatori, buonasera. Allora, io direi che possiamo iniziare dando una prima indicazione a tutti gli ascoltatori proprio. Se uno ha una lampada esaurita in casa da buttare, che fa? Da chi deve andare? Può fare due cose. La prima, andare in un'isola ecologica comunale o in un centro di raccolta. Ce ne sono 3.000 in tutta Italia. Gran parte di questi sono serviti da Ecolamp con i suoi cassonetti. La seconda opzione è più pratica, sì, perché nel momento in cui decidesse di andare a comprare una nuova lampada, può portare con sé la vecchia e consegnarla al distributore, cioè al negoziante che gli sta vendendo la nuova. Insomma, uno va al supermercato e la lascia in cassa. Sì, se non in cassa, in luoghi che poi il distributore ha individuato, perché devono essere realizzati a norma di legge, con criteri e con norme precise. E certo, sempre di vetro, si tratta di mercurio, poi ne parliamo. E senta, invece, per gli altri attori, non so, i grossisti, gli elettricisti, ecco, chi fa impianti, invece ci sono le isole ecologiche, insomma, è lì che si va, no? No, in realtà no, perché le isole ecologiche comunali, per come viene interpretata la normativa oggi in Italia, sono aperte unicamente alle famiglie, ai nuclei domestici, ai consumatori privati. Se un installatore, tipicamente parliamo di professionisti che assorbono gran parte delle lampade a suo consumo che vengono immesse sul mercato dai produttori e dai grossisti, ha necessità di disfarsi di questi rifiuti, oggi ha un problema perché non può entrare nelle isole ecologiche comunali. Allora o può ricorrere all'uno contro uno per quella parte di rifiuti che ha un'origine domestica, oppure può fare ricorso ai servizi di raccolta volontaria che un consorzio come il nostro, credo che siamo gli unici in Italia a farlo, mette gratuitamente a disposizione di questi soggetti. Questi servizi prevedono che Ecolamp invii un trasportatore autorizzato presso un magazzino di un installatore che chiami con 20 giorni d'anticipo dicendo: io ho almeno 100 kg di lampade esauste da smaltire. D'accordo, a questo punto d'accordo. Interveniamo noi. Se ne ha meno di 100 kg, ci sono i collection point, cioè dei luoghi che sono convenzionati sempre con noi, dove un installatore può andare con la sua macchina e lasciare meno di 100 kg di lampade. Ecco, anche perché leggevo, se ricordo bene adesso a memoria, che almeno l'80% dei corpi illuminanti non hanno una provenienza domestica, saranno, immagino, per l'illuminazione stradale oppure terziario oppure l'industria, insomma il grosso non è quello che arriva da casa. Esattamente, ha ragione, ed è questo proprio il punto, cioè oggi chi acquista, che sia un privato, un utente domestico o un consumatore professionale, finanzia il meccanismo di raccolta e trattamento. Però nel momento in cui è consumatore professionale non ha accesso all'isola ecologica quando vuole andare a smaltire le sue lampade esauste. Ecco, senta, se vediamo i numeri, adesso non ricordo, ma quante sono le lampade ogni anno che vengono vendute in Italia? Tra i 100 e i 120 milioni di pezzi. D'accordo, e insomma, proprio i numeri che avete dato voi, in questo momento in Italia siamo circa un 15% di raccolta rispetto all'immesso sul mercato. Mentre se andiamo a vedere i numeri di altri paesi, beh, sono decisamente un po' più avanti, no? La Francia, sì, quadruplo. Ha ragione. Mediamente in Europa i paesi che sono comparabili all'Italia come dimensioni del mercato, cioè come milioni di pezzi che vengono venduti ogni anno, hanno un tasso di raccolta, ossia una raccolta di lampade esauste, che è sul 30-35%. D'accordo. L'Italia è indietro, ovviamente, ma è un ovviamente che si giustifica, cioè la normativa europea è stata recepita dallo Stato italiano con 2 o 3 anni di ritardo rispetto a quanto è stato fatto in Spagna, in Francia, certo, in Germania, nel Regno Unito. Quindi noi oggi stiamo rincorrendo questi quantitativi di raccolta, però i numeri sono incoraggianti, in quanto noi siamo al terzo anno di attività, il 2011, ma nel 2009 abbiamo raccolto 847 tonnellate, 1264 nell'anno 2010 e adesso andiamo verso le 1500. Quindi riteniamo che già il 2012 potrebbe farci dire che il gap con gli altri paesi d'Europa è stato colmato. Ecco, senta, una volta che queste lampade vengono appunto recuperate, che cosa gli succede, che cosa si riesce a recuperare quanto a materiale invece da queste lampade? Che cosa succede? Vanno negli impianti di trattamento che sono in Italia, ci sono le apposite macchine che fisicamente triturano il vetro, sì, e separano tutte le varie componenti, tra cui il mercurio che è la parte inquinante, poi i materiali ferrosi e non ferrosi. Materie prime e seconde dalle lampadine sono molto poche, soprattutto il vetro, come ho detto, che, sì, finisce o nell'industria della bottiglieria oppure nell'industria edile, cioè vengono realizzate piastrelle che contengono i residui di vetro di questa triturazione, di questo sminuzzamento delle lampade. Il mercurio naturalmente viene trattato come un rifiuto tossico nocivo e quindi viene smaltito separatamente. D'accordo, e complessivamente comunque si ricicla quasi interamente, no, la lampada? Quasi, sì, 85-90% di una lampada, del contenuto, dei pezzi, delle sue componenti è riciclabile, è abbastanza semplice. Va bene, grazie allora D'Amico e buona continuazione, grazie, buon lavoro. A voi, insomma. Arrivederci, grazie, buon lavoro. Bene, Mr. Kilowatt si ferma qui per stasera, torneremo domani, parleremo di urbanistica, di quartieri sostenibili. Buona serata a tutti voi.